Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 11 maggio 1986. Evelyn Couch aprì il sacchetto di plastica pieno di sedano e bastoncini di carota che aveva portato con sé e li offrì alla sua amica. La signora Threadgood rifiutò, ma continuò a masticare allegramente le sue noccioline. «Grazie, cara, ma le verdure crude non mi fanno bene. Come mai le mangia?» Seguo il programma Weight Watchers, o almeno ci provo. Posso mangiare tutto quello che mi pare, purché non contenga né grassi né zuccheri. Sta di nuovo cercando di dimagrire. Sì, ci voglio provare, ma è dura, ormai sono ingrassata troppo. Faccia come crede, ma a me lei piace così. Oh, signora Threadgood, è carino da parte sua, ma sono diventata una taglia 54. A me lei non sembra sovrappeso. E Siriu, lei sì che era una cicciona, ma ha sempre avuto quella tendenza fin da ragazza. A un certo punto pesava quasi 100 chili. Davvero? Certamente, ma non se n'è mai preoccupata ed era sempre elegantissima e tra i capelli portava un fiore dello stesso colore del vestito. Tutti quanti dicevano che Siriu sembrava appena uscita da una capelliera e aveva mani e piedi piccolissimi. Persino a Birmingham parlavano dei suoi piedini quando andava laggiù a suonare quel Wurlitzer. Che cosa? L'organo Wurlitzer è stato per anni all'Alabama Theater. Dicono che fosse il più grande del sud e immagino che avessero ragione. Prendevamo tutti quanti il tram per andare al cinema. A me piaceva soprattutto quando c'era Ginger Rogers, era la mia attrice preferita, quella ragazza più talento di ogni altra a Hollywood. Non me ne importa nulla di vedere un film se non c'è lei. Sa fare tutto, ballare, cantare, recitare, proprio tutto. Comunque, tra una proiezione e l'altra, le luci si abbassavano e una voce maschile diceva: «E ora l'Alabama Theater è orgoglioso di presentare...» Diceva proprio così, orgoglioso di presentare. Essie Rue Limeway all'organo Wurlitzer. E da lontano si sentiva una musica. Poi, all'improvviso, dal pavimento saltava fuori quell'enorme organo ed Essie Rue suonava la sua canzone preferita. «Mi sono innamorata dell'uomo sulla luna». Tutti i riflettori erano puntati su di lei e il suono dell'organo faceva tremare il soffitto. Poi lei si girava e sorrideva, continuando a suonare, e passava un'altra canzone. I suoi piedini volavano su quei pedali come farfalle. Alle caviglie portava dei cinturini ordinati apposta ai grandi magazzini Loveman. Quando si ingrassa, in genere si ingrassa dappertutto, ma lei no, mani e piedi erano rimasti magri. Tutti quanti abbiamo le nostre virtù e lei conosceva le sue e sapeva valorizzarle. È per questo che mi dispiace vederla così giù. Proprio l'altro giorno dicevo alla signora Otis: Evelyn Couch ha la pelle più fine che io abbia mai visto. Sembra che sua madre l'abbia tenuta nella bambagia per tutta la vita. Oh, grazie, signora Threadgood. È la verità, non ha una sola ruga. Ho detto anche alla signora Otis che secondo me lei dovrebbe vendere i cosmetici della Mary Kay. Con la sua pelle e la sua personalità riuscirebbe a guadagnarsi la Cadillac Rosa in men che non si dica. La mia vicina, la signora Hartman, ha una nipote che fa questo lavoro e guadagna un sacco, e l'azienda le ha regalato come premio una Cadillac Rosa. E non è carina la metà di lei, Evelyn. È tanto gentile a parlarmi così, signora Threadgood, ma sono troppo vecchia per un lavoro del genere, vogliono ragazze giovani. Evelyn Couch, come può parlare così quando è ancora poco più di una bambina? 48 anni non sono niente, è appena arrivata a metà della sua esistenza. Mary Kay non dà importanza all'età. Lei stessa non è più un fiore, sa per questo. Se fossi lei e avessi la sua pelle e la sua età, cercherei di procurarmi quella Cadillac. Naturalmente dovrei prendere anche la patente, ma ne varrebbe la pena. Provi a pensarci, Evelyn. Le ci vorranno altri 37 anni prima di diventare vecchia come me. Evelyn rise. Che cosa si prova ad avere 86 anni, signora Threadgood? Oh, niente di speciale, non si sente alcuna differenza. Un giorno si è giovani e il giorno dopo si scopre di avere il petto cadente, il doppio mento e bisogna mettere il busto. Ma non si sa di essere invecchiati. Io me ne accorgo solo quando mi guardo allo specchio e certe volte mi spavento a morte. Il mio collo sembra carta crespa e ho così tante rughe che nessuna crema ormai potrebbe attenuarle. Mettevo un prodotto delle Avon, ma dopo un'ora le rughe tornavano fuori, così alla fine rinunciai a provare. Ho smesso anche con i prodotti per il viso. Uso solo la lozione e la matita per gli occhi, ma per il resto, e sono piena di macchie di fegato. Si guardò le mani. Chissà da dove sono venute. Rise. Sono troppo vecchia, anche per farmi fotografare. Francis voleva fotografarmi con la signora Otis, ma io ho nascosto la faccia. Non volevo rompere la macchina fotografica. Evelyn le domandò se non si sentisse mai sola alla casa di riposo. Certe volte sì, sa com'è, i miei sono tutti già morti, ma ogni tanto viene a trovarmi qualcuno della chiesa. Sono visite brevi e non sappiamo quasi più cosa dirci. Certe volte guardo la fotografia di Cleo e del piccolo Albert e mi domando che cosa stiano facendo e sogno di poter tornare ai vecchi tempi. Sorrise Evelyn. È di questo che vivo adesso, tesoro, di sogni. Sogni del passato. Caffè di Whistlestop, Alabama. 18 novembre 1940. Stamp era nel retro a sparare sui corvi di cartone con una pistola a elastico e Ruth stava correggendo i compiti quando Iggy tornò dalla gita di pesca annuale del club dei cetrioli sott'aceto. Stamp le saltò addosso con tale foga che per poco non la fece cadere lunga e distesa. Ruth fu contenta di vederla, perché si preoccupava sempre quando Iggy stava lontana per una settimana o più, soprattutto sapendo che era al fiume con Eva Bates. Stamp corse fuori ad affacciarsi sui gradini. «Dove sono i pesci?» «Beh, Stamp, la verità è che abbiamo catturato un pesce tanto grosso che non siamo riusciti a tirarlo fuori dall'acqua. Gli abbiamo scattato una foto, però, e quella da sola pesa 10 chili. Oh, zia Iggy, non avete pescato niente!» In quel momento si udì. «È permesso? Sono io con Albert. Sono venuta a trovarvi!» Ed entrò una donna alta e dall'aspetto gentile, con i capelli raccolti dietro la nuca, e un ragazzino ritardato, più o meno coetaneo di Stamp. Venivano in visita, come facevano quasi ogni giorno da 10 anni a quella parte, ed era sempre una visita gradita. «Come va la vita?» domandò Iggy. «Benissimo», rispose la donna sedendosi. «E voi ragazze come state?» «Pensa, Ninni», disse Ruth. «Avremmo potuto avere pesce gatto per cena, ma non hanno abboccato». Rise. «Metteremo nel piatto la fotografia». Ninni sembrava delusa. «Oh, Iggy, speravo tanto che tu avessi portato un pesce gatto anche per me. Li adoro. È un vero peccato, avevo già l'acquolina in bocca». «Ninni, i pesci gatto non abboccano in pieno inverno». «Ah, no? Pensavo che avessero lo stesso appetito che hanno in estate». «È vero, Iggy», le diede ragione Ruth. «Perché non abboccano in questo periodo dell'anno?» «Ah, oh, non è che manchi loro l'appetito. Il problema è la temperatura del verme. Un pesce gatto non mangerebbe mai un verme freddo, anche se fosse sul punto di morire di fame». Ruth guardò Iggy e scosse la testa, sempre stupita delle storie incredibili che riusciva a inventare. «Potrebbe essere vero», la difese Ninni. «Anche a me non piace mangiar freddo, eppure se li riscaldassi i vermi farebbero in tempo a raffreddarsi prima di arrivare sul fondo del fiume». «A proposito di freddo, non trovate che quest'inverno sia particolarmente gelido? C'è da ghiacciare là fuori». Dall'altra parte della stanza, Albert giocava con Stamp a sparare i melli di cartone. Mentre beveva il caffè, Ninni ebbe un'idea. «Stamp, potresti venire a casa mia e sparare a quegli uccellacci che se ne stanno sempre appollaiati sui miei fili del telefono? Non devi far loro del male, devi solo spaventarli. Secondo me spiano le mie telefonate quando gli passano attraverso le zampe». Ruth, che adorava Ninni, disse: «Non ci crederai davvero, Ninni? Perché no? Me l'ha detto Cleo». Chicago, Illinois, 20 novembre 1940. Pioveva a Chicago e Artis O'Peavy stava correndo lungo la strada. Si infilò in un portone sotto un'insegna che diceva «Pranzo di mare, pesce fritto, 35 cents». Dall'altra parte della strada, al cinema Alhambra, davano «Dealers in Crime» e «Hoodlum Empire». Gli sembrava di essere un fuggiasco, solo in quella città, tanto lontana da casa sua. Ma stava cercando di sfuggire a una damigella nera di nome Electra Green. Rimase lì a fumare una Chesterfield e a contemplare la vita e le sue innumerevoli complicazioni. Sua madre gli aveva detto che quando si sentiva giù doveva soltanto pensare a Gesù perché il suo spirito si risollevasse. Ma non fu il pensiero di Gesù a risollevare lo spirito di Artis, bensì la vista di una bellezza nera dai fianchi alti e dalle labbra carnose. E non fu solo il suo spirito a risollevarsi e a rimanere sollevato con grande delizia della bellezza nera. Il suo maggior problema al momento era quello di amare troppo e senza la necessaria saggezza. Non si era mai curato troppo dei mariti delle belle signore perché Artis non conosceva confini. Tutte le donne rientravano nel suo dominio e proprio a causa di questa mancanza di rispetto per i diritti territoriali spesso si era palpato alla ricerca di ferite da pugnale e ossa rotte e quasi sempre le aveva trovate. Dopo essere stato sorpreso con la donna sbagliata nel momento sbagliato, un amazzone color bronzo lo aveva colpito con un cavaturaccioli. Era stato molto più attento dopo quell'episodio infelice, il risultato del quale erano state una cicatrice assai interessante e una naturale esitazione ad accoppiarsi con donne meglio piantate di lui. Ciò nonostante, era sempre un rubacuori. Aveva detto a qualche donna di troppo di passarlo a trovare la sera dopo, e quello era proprio ciò che loro facevano, passavano a trovarlo. Mingherlini ossuto, tanto nero da sembrare blu, Artis aveva causato molti problemi al sesso opposto. Una ragazza aveva bevuto un flacone di cera per pavimenti condita con un bicchiere di candeggina nel tentativo di raggiungere un mondo diverso da quello in cui viveva lui. Quando era sopravvissuta, disperata perché i due liquidi le avevano rovinato per sempre la pelle, lui aveva cominciato a stare sulle spine ogni volta che scendeva la notte, perché più di una volta lei gli si era avvicinata quatta quatta alle spalle e lo aveva colpito alla testa con una borsetta piena di sassi. Ma la storia con Elettra Green era molto più grave. Elettra in borsetta non aveva sassi, ma una pistola calibro 38 che sapeva usare molto bene e più di una volta aveva minacciato la sua mascolinità, soprattutto dopo aver scoperto che lui non le era stato sempre fedele. E non una sola volta, ma 8 per la precisione, con una certa Delilah Woods, nemica giurata di Elettra, che si era già affrettata a lasciare la città. Dentro quel portone, Artis stava soffrendo tanto intensamente che temette di morire. Gli mancava Birmingham e avrebbe voluto poterci tornare quella sera stessa. Ogni pomeriggio, prima della frettolosa fuga da Birmingham, era salito sulla Montagna Rossa a guardare il tramonto con la sua Chevrolet in due tonalità di blu e con le gomme bianche. Da lassù poteva vedere le fabbriche di ferro e acciaio con le ciminiere che sprigionavano un fumo color arancio e il suo sguardo poteva spaziare fino al Tennessee. Per lui non c'era nulla di più bello della città a quell'ora, quando il cielo era tinto di porpora dai fumi delle ciminiere e le luci al neon cominciavano ad accendersi, ammiccando e danzando nelle strade del centro e a Slacktown. Birmingham, durante la depressione, era stata definita da Roosevelt la città più colpita degli Stati Uniti. I poveri erano tanto poveri che Artis aveva conosciuto un uomo disposto a lasciarsi sparare addosso in cambio di qualche soldo, e una ragazza, per vincere una maratona di danza, aveva tenuto i piedi a mollo in acqua salata e aceto per 3 giorni. La città aveva il reddito pro capite più basso di tutta l'America, eppure era considerata la più divertente del Sud. Già, Birmingham, Birmingham, che aveva contemporaneamente il più alto tasso di analfabetismo e il più alto numero di malattie venere di ogni altra città statunitense, e deteneva con orgoglio il record del più alto numero di studenti di catechismo. Birmingham, in cui i camioncini delle lavanderie Imperial un tempo avevano circolato con la scritta «Laviamo solo per i bianchi», e in cui i cittadini di colore sedevano tuttora dietro paratie di legno sui tram e nei grandi magazzini usavano il montacarichi invece dell'ascensore. Birmingham, capitale meridionale del crimine, in cui solo nel 1931 erano state uccise 131 persone. Questa era Birmingham. Eppure Artis l'amava con insaziabile passione da sud a nord, nella gelida pioggia invernale, quando l'argilla rossa franava dalle colline invadendo le strade, e nella canicola estiva quando i rampicanti coprivano le pendici delle colline e si inerpicavano su per i pali del telefono, e l'aria umida era greve dell'odore delle gardenie e dei barbecue. Aveva girato tutto il paese, da Chicago a Detroit, da Savannah a Charleston su fino a New York, ma non c'era mai stata una volta in cui non fosse stato felice di tornare a Birmingham. Se esiste qualcosa come la completa felicità, è sapere di essere nel posto giusto, e Artis si era sentito completamente felice nel momento stesso in cui aveva messo piede a Birmingham. Così, quel giorno, prese la decisione di tornare a casa, perché sapeva che avrebbe preferito cader morto piuttosto che restare lontano più a lungo. Sentiva la mancanza di Birmingham come molti uomini sentono la mancanza delle loro mogli. E proprio questo Elettra Green intendeva diventare, se avesse concesso ad Artis di vivere, naturalmente. Mentre passava davanti al Fife and Drum Bar, il jukebox suonava una canzone. Notizie di Slacktown, giornale negro di Birmingham di Milton James, 25 novembre 1950. Si sposa lo scapolo più famoso di Birmingham. La signorina Elettra Green, figlia del signore e della signora Green, ha sposato il signor Artis O'Pivi, figlio del signore e della signora Pivi di Whistlestop, Alabama. Ha officiato la funzione il dottor John W. Nixon, pastore della prima chiesa congressuale, mentre le musiche nuziali sono state suonate dal bravissimo Lewis Jones. La sposa portava un completo verde bosco con accessori ambra e una stola di visone. Il cappello era di feltro marrone con guanti e scarpe dello stesso colore e il bouquet era di gigli. La signorina Naughty Bird Peavy, sorella dello sposo, era splendida nel suo vestito in crespo di lana viola con il davanti dappeggiato completamente da una collana di perline multicolori e da guanti e scarpe color ciliegia. Subito dopo le nozze ha avuto luogo un colorito ricevimento a casa della signora Lulu Butterfork, personaggio di spicco nell'ambiente delle estetiste cittadine, in quanto essa stessa estetista e specialista in parrucche. Ai molti cittadini invitati al ricevimento sono stati serviti punch, gelato e pasticcini, e tutti hanno mostrato ammirazione e meraviglia davanti alla ricchezza dei doni nuziali. Lunedì 5 ottobre, verso le 11 di sera, gli sposi sono stati nuovamente festeggiati nel corso di una serata che ha compreso un piccante numero di danza con la signorina Tonsi Robinson come presentatrice. L'eleganza è stata la caratteristica saliente del ricevimento. Il Little Savoy Café è stato abbellito da preziosi addobbi natalizi. Il buffet delle vivande era stracarico e offriva una scelta vastissima. È stato servito un pranzo di 7 portate con vino e antipasti, caffè e dessert. La coppia risiederà in casa della sposa in Fountain Avenue. Birmingham, Alabama, 19 maggio 1986. Erano passati 10 interminabili durissimi giorni da quando aveva iniziato la dieta, ma quel giorno Evelyn Couch si svegliò con addosso una grande euforia. Le sembrava di essere finalmente padrona della propria esistenza, alta e magra, aggraziata e flessuosa. Quei 9 giorni erano stati come scalare una montagna, ma adesso sapeva di aver raggiunto la vetta. In cuor suo sentiva già che per il resto della sua vita non avrebbe più mangiato nulla che non fosse fresco e croccante, proprio come si sentiva lei adesso. Quando entrò nel supermercato, superò in velocità gli scaffali dei biscotti, dei dolci e del pane bianco e quelli dei cibi in scatola, tra i quali aveva trascorso buona parte della sua esistenza, e raggiunse direttamente il banco della macelleria, dove ordinò petto di pollo senza pelle. Quindi si recò nel reparto frutta e verdura, che finora aveva visitato solo saltuariamente, per comprare delle patate, e acquistò broccoli e limoni da affettare nell'acqua minerale. Si soffermò brevemente davanti alle riviste per comprare il numero di Town and Country con l'articolo su Palm Beach. Quindi andò alla cassa, dove la cassiera la salutò con un sorriso. Buongiorno, signora Couch, come sta? Stupendamente, Mosel, e tu? Benone, non prende altro? Nient'altro, grazie. Mosel batté la somma. La trovo in perfetta forma oggi, signora Couch. Grazie, in effetti mi sento un'altra persona. Buona giornata, allora. Grazie anche a te. Mentre Evelyn usciva, un ragazzotto dall'aspetto arrogante, con un paio di pantaloncini corti sporchi di unto e una maglietta, entrò dall'uscita e per poco non la travolse. Evelyn, ancora di buon umore, borbottò tra sé: «Ehi, un po' di educazione!» Il ragazzo si girò con uno sguardo minaccioso. «Fanculo, strega!» disse e proseguì. Evelyn fu stupefatta. L'odio che aveva letto in quegli occhi l'aveva lasciata senza fiato. Cominciò a tremare e addirittura a piangere. Era come se qualcuno l'avesse schiaffeggiata. Chiuse gli occhi e cercò di mantenere il controllo. Era solo uno sconosciuto, non aveva importanza, non c'era motivo di prendersela. Ma più ci pensava, più si convinceva di dovergli dare una lezione. Lo avrebbe aspettato fuori e gli avrebbe detto che aveva parlato così senza intenzione di offenderlo e che era sicura che fosse entrato dalla porta sbagliata per errore e che non si fosse reso conto di averla urtata. Era certa che se si fosse spiegata, il ragazzo si sarebbe sentito in colpa e l'incidente si sarebbe concluso per il meglio. Dopo un po' il ragazzo uscì dalla porta con un pacchetto e la superò. Lei lo raggiunse pochi metri più avanti. «Mi scusi, volevo solo dirle che non c'era motivo che si arrabbiasse tanto con me. Io volevo...» Lui la guardò con disgusto. «Levati dai piedi, brutta vacca!» Evelyn sbiancò. «Come mi ha chiamata, scusi?» Lui continuò a camminare ignorandola. Lei lo rincorse in lacrime. «Come mi ha chiamata? Perché è tanto crudele con me? Che cosa le ho fatto? Non mi conosce neppure!» Il ragazzo aprì la portiera dell'auto ed Evelyn, isterica, lo afferrò per un braccio. «Perché? Perché è tanto crudele con me?» Lui si scrollò di dosso la sua mano e con un gesto di furia cieca l'allontanò spingendola con il pugno chiuso. «Non fare la stronza con me, altrimenti ti stacco la testa, stupida grassona!» Le diede uno spintone sul petto tanto forte da farla cadere. Evelyn non voleva credere che fosse accaduto davvero. Le sue verdure erano sparse intorno a lei sull'asfalto. La ragazza con i capelli lisci e il top elastico che aveva aspettato il ragazzo nell'auto la guardò e rise. Lui salì a bordo, ingranò la retromarcia e uscì dal parcheggio continuando a rivolgerle insulti. Lei rimase seduta a terra, con un gomito sanguinante, di nuovo vecchia, grassa e depressa. Il giornale della signora Wims, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 12 dicembre 1941. È scoppiata la guerra. Grady Kilgore, presidente della commissione di leva, prega tutti i giovani di passare da lui a firmare. Ultimamente dalla nostra stazione non transitano altro che tradotte e carri cisterna. Viene da domandarsi da dove vengano e dove siano diretti. Wilbur dice che la guerra non durerà più di 6 mesi. Spero che una volta tanto abbia ragione. Il quartetto delle Jolly Bells Ladies è stato invitato a partecipare al raduno nazionale dei cori a Memphis, nel Tennessee, che si terrà questa primavera, per esibirsi nella popolarissima Intingi il pennello nel sole e continua a dipingere. Il reverendo Scroggins chiede alle persone che continuano a dare il suo indirizzo e il numero di telefono a chiunque voglia comprare whisky di smetterla perché sua moglie Arna ha i nervi a pezzi e questa settimana ha già avuto diverse crisi. Bobby Lee Scroggins è andato in marina. Per finire, la stella militare nella vetrina del caffè è dedicata a Willie Boy Peavy, il figlio di Onsel e Big George, che sarà il primo soldato di colore di Trutville a essere ammesso nell'esercito. Dot Wims. PS, tutto è ormai pronto per la recita natalizia e a causa della penuria di uomini in città, Opal, io e Ninni Threadgood interpreteremo il ruolo dei re magi. Birmingham, Alabama, 8 agosto 1986. Quando il ragazzo al supermercato le aveva lanciato quegli epiteti, Evelyn Couch si era sentita come violentata. Sì, violentata a parole, spogliata di tutto. Aveva sempre cercato di evitare che una cosa simile potesse accaderle. Era sempre stata terrorizzata all'idea di disgustare gli uomini e degli insulti che le avrebbero rivolto. Aveva trascorso tutta la vita a camminare intorno a loro in punta di piedi, come una persona che, attraversando un terreno da pascolo, si sforzi di non calpestare l'erba. Aveva sempre sospettato che, se un uomo si fosse sentito provocato da lei, le male parole sarebbero emerse da sotto la superficie, pronte a investirle e a distruggerla. E ora era accaduto. Però era rimasta in vita, così cominciò a porsi delle domande. Era come se l'atto di violenza compiuto dal ragazzo l'avesse costretta finalmente a guardare dentro di sé e a porsi gli interrogativi che evitava da anni per timore delle risposte. Che cos'era mai questo potere, questa insidiosa minaccia, quest'arma invisibile puntata alla tempia che controllava la sua esistenza, questo terrore di essere insultata? Era rimasta vergine per non essere chiamata sgualdrina o puttana? Si era sposata per non essere chiamata zitella, aveva finto gli orgasmi per non essere chiamata frigida, aveva avuto dei figli per non essere chiamata sterile. Non era mai stata una femminista perché non voleva sentirsi dare della lesbica. Non aveva mai protestato né alzato la voce per non venire etichettata come una rompiscatole. Aveva fatto tutto questo. Eppure quell'estraneo l'aveva umiliata con le parole che gli uomini rivolgono alle donne quando sono furiosi. Perché sempre riferimenti a sesso? Si domandò Evelyn. E perché quando gli uomini volevano umiliare gli altri uomini li chiamavano donnicciole, come se fosse la cosa peggiore del mondo? Che cosa abbiamo fatto per essere considerate in questo modo? Per essere chiamate vacche? La gente non insultava più i negri, almeno non in faccia. Gli italiani non erano più chiamati cani e conversando tra loro le persone non chiamavano più musi gialli gli orientali o figli di Giuda gli ebrei. Tutti avevano un gruppo che protestava per loro e li difendeva. Solo le donne venivano ancora mortificate dagli uomini. Perché? Dov'era il loro gruppo? Non era giusto. Ogni minuto che passava, Evelyn si arrabbiava sempre di più. Se ci fosse stata Iggy con me, pensò lei, non avrebbe permesso a quel ragazzo di insultarmi. Scommetto che sarebbe stato lui a finire per terra. Poi smise di pensarci perché all'improvviso provava un sentimento che finora non aveva mai conosciuto e che la spaventava moltissimo. E così, 20 anni dopo le femministe, Evelyn Couch era arrabbiata. Era arrabbiata con se stessa per aver avuto paura, ma ben presto tutta questa collera cominciò a esprimersi in un modo molto particolare. Per la prima volta desiderò di essere nata uomo, non per il privilegio di essere dotata dell'equipaggiamento di cui gli uomini andavano tanto fieri, no, voleva la forza degli uomini, perché così al supermercato avrebbe potuto ridurre in polpette quel bastardo arrogante. Naturalmente, se fosse stata uomo, per prima cosa non avrebbe ricevuto quegli insulti. Nella sua fantasia, cominciò a considerarsi dotata della forza di 10 uomini e a piacersi. Divenne una superdonna. E nella sua mente picchiò e malmenò ripetutamente quel ragazzo dalla bocca piena di parolacce, fino a ridurlo tutto pesto e sanguinante nel parcheggio, per il gusto di sentirlo implorare pietà. Ben gli stava. Così, Nel suo 48esimo anno di vita, Evelyn Couch di Birmingham, Alabama, cominciò ad avere una doppia vita segreta. Poche persone, vedendo questa piacente, tondeggiante signora di mezza età intenta a fare spese o a sbrigare le faccende di casa, avrebbero immaginato che nella sua fantasia sparava ai genitali degli stupratori e, munita di appositi stivali, calpestava morti i mariti che maltrattavano le mogli. Evelyn si era persino scelta un nome in codice, un nome temuto in tutto il mondo, Towanda la Vendicatrice. Mentre Evelyn svolgeva con il sorriso sulle labbra i compiti quotidiani, Towanda andava a caccia dei molestatori di bambini e con un bastone elettrico, di quelli usati per il bestiame, li torturava fino a far loro rizzare i capelli in testa. Poi collocava nelle riviste Playboy e Penthouse minuscole bombe che esplodevano quando qualcuno sfogliava le pagine. Iniettava overdosi agli spacciatori di droga e li lasciava morire per la strada. Costringeva il dottore che aveva diagnosticato a sua madre il cancro a camminare nudo mentre i colleghi medici, compresi dentisti e igienisti orali, lo deridevano e gli lanciavano sassi. Da quella misericordiosa vendicatrice che era, aspettava sempre che lui avesse terminato la sua passeggiata prima di rompergli la testa con un martello. Towanda poteva fare tutto ciò che voleva. Andava indietro nel tempo e pestava l'Apostolo Paolo per avere scritto che le donne dovevano tenere il becco chiuso. Andava a Roma, spodestava il Papa e lo sostituiva con una suora, contornata di preti, che cucinavano e pulivano per lei. Towanda appariva in TV e, con voce pacata e lo sguardo freddo, discuteva con chiunque fosse in disaccordo con lei, finché, sconfitto dalla sua mente brillante, il poveretto scoppiava in lacrime e abbandonava il set. Andava a Hollywood e ordinava a tutti gli attori protagonisti di recitare con donne della loro età e non con ventenni dal corpo perfetto. Dava in pasto ai topi tutti i prepotenti e inviava cibo e anticoncezionali per uomini e per donne a tutti i popoli bisognosi del mondo. Grazie alla sua generosità e al suo discernimento, diventava conosciuta dappertutto come Towanda la Magnanima, raddrizzatrice dei torti e regina senza uguali. Towanda ordinava che un ugual numero di uomini e donne entrassero a far parte del governo e partecipasse a sedute di pace. Gli scienziati trovassero una cura contro il cancro e inventassero una pillola che permettesse di mangiare quanto si voleva senza ingrassare. Chiunque volesse avere figli si procurasse prima un permesso che veniva concesso in base alle condizioni finanziarie e mentali dei genitori. Basta con i bambini affamati e maltrattati. Jerry Falwell sarebbe stato responsabile dell'educazione di tutti i bambini illegittimi senza casa. Nessun gattino o cucciolo di cane sarebbe più stato ucciso. Sarebbe stato assegnato loro uno stato in cui potessero vivere in libertà, magari il Nuovo Messico o il Wyoming. Insegnanti e infermieri avrebbero ricevuto un salario pari a quello dei giocatori di football professionisti. Avrebbe impedito la costruzione di altri condomini, soprattutto di quelli con il tetto in tegole rosse. Era uno dei preferiti di Towanda. Chi scriveva graffiti sui muri sarebbe stato immerso in una vasca di inchiostro indelebile. Ai figli di genitori famosi sarebbe stato impedito di scrivere biografie e lei stessa avrebbe personalmente provveduto perché tutti i padri che avevano tanto faticato ricevessero in premio un viaggio alle Hawaii e una barca fuori bordo per andare al largo. Towanda andava in Madison Avenue e assumeva il controllo di tutte le riviste di moda. Tutte le modelle che pesavano meno di 60 kg sarebbero state licenziate e le rughe sarebbero diventate sessualmente attraenti. I formaggi magri sarebbero stati messi fuori commercio e così pure i bastoncini di carota. Il giorno prima Towanda era andata al Pentagono, aveva preso tutte le bombe e i missili e li aveva sostituiti con dei giocattoli. Poi era andata al notiziario delle 6 e aveva devoluto il budget militare a tutti i pensionati degli Stati Uniti. Towanda aveva delle giornate talmente piene che all'ora di andare a letto Evelyn era letteralmente distrutta. Non c'era da stupirsene. Quella sera, mentre lei preparava la cena, Towanda aveva messo a morte qualche decina di produttori di film pornografici con i bambini per protagonisti. E più tardi, mentre lavava i piatti, Towanda aveva cancellato dalla faccia della terra tutto il Medio Oriente per prevenire l'insorgenza di una terza guerra mondiale. E così, quando Ed gridò dallo studio che voleva un'altra birra, prima che Evelyn potesse impedirlo, Towanda rispose: «Vai a farti fottere, Ed!» Lui si alzò in silenzio dalla sua poltrona e andò in cucina. «Evelyn, ti senti bene?» Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama. 9 febbraio 1943. La guerra imperversa. La mia dolce metà fa 2 turni di lavoro, esattamente come tutti gli altri alla ferrovia, perché l'industria del ferro e dell'acciaio lavora a ritmi serrati e in questi giorni sono quasi sempre sola. Ma visto che lui sta aiutando lo zio Sam e i nostri ragazzi, credo di poterlo sopportare. Tommy Glass e Ray Limeway mandano saluti dal campo di addestramento. A proposito, qualcuno di voi ha visto l'orto di guerra di Iggy e Ruth presso la vecchia casa Threadgood? Iggy dice che Sipsy ha coltivato dei fagioli americani grandi come dollari d'argento. Io nel mio orto non riesco a far crescere altro che qualche patata dolce. 3 membri del quartetto delle Jolly Bell Ladies, io, Biddy Louis Otis e Nini Threadgood, sono andati a Birmingham e dopo aver cenato alla Breitling Cafeteria sono andati a vedere la nostra Essie Rue Limeway. Il film non era bello la metà dello show tra i due tempi. Siamo tutti molto orgogliosi. Avremmo voluto dire a tutti quelli che c'erano nel teatro che Essie è nostra amica. Nini si è girata verso il suo vicino e gli ha detto che Essie Rue è sua cognata. Per finire, non dimenticate di mettere da parte la gomma. Dot Wims. PS. Chi ha detto che noi siamo il sesso debole? Il povero Dwayne Glass è svenuto al proprio matrimonio domenica scorsa e nel corso di tutta la cerimonia ha dovuto essere sostenuto fisicamente dalla sua futura sposa. Ha detto che finita la funzione si è sentito subito molto meglio. Si arruolerà appena tornato dalla luna di miele. Whistle Stop, Alabama, 12 gennaio 1944. A Birmingham, alla stazione della LNN, una banda di ottoni e una folla di 500 persone hanno dato il benvenuto a casa ai figli, ai mariti e ai fratelli di ritorno dal fronte. Tutti eroi di guerra. Le bandiere sventolavano in attesa del treno delle 6:20 da Washington, ma il treno ha fatto una fermata supplementare a 20 minuti da Birmingham e alla fine del marciapiede una famiglia di negri aspettava il figlio. Nel più assoluto silenzio, la bara di legno è stata scaricata dal vagone merci e depositata sul carro che la porterà fino a Trotville. Artis, Jasper e Naughty Bird hanno camminato dietro a Onsel, Sipsy e Big George. Al loro passaggio, Grady Kilgore, Jack Butts e tutti i dipendenti della ferrovia si sono tolti il cappello in segno di rispetto. Non c'erano né bandiere, né banda, né medaglie, solo un cartellino con il nome attaccato alla bara. Ma dall'altra parte della strada, nella vetrina del caffè, c'erano la bandiera e la stella militare e una scritta che diceva «Bentornato a casa, Willy Boy». Ruth, Iggy e Stamp erano già andati a Trotville ad aspettare con gli altri. Il dolce Willy Boy, il ragazzo che era stato accettato all'istituto Tuskegee, il più intelligente, il giovane destinato a diventare avvocato e leader della sua gente, una luce che dalle strade dell'Alabama avrebbe illuminato la via fino a Washington. Willy Boy, quello che aveva tutte le possibilità per farcela, è rimasto ucciso durante una rissa in un bar da un soldato nero di nome Winston Lewis di Newark, New Jersey. Willy Boy stava parlando di suo padre Big George. Ogni volta che quel nome veniva menzionato dalle sue parti, bianchi e neri insieme dicevano immancabilmente: quello sì è un uomo. Ma Winston Lewis aveva affermato che tutti i negri che lavoravano per i bianchi, soprattutto in Alabama, erano soltanto degli ignoranti, degli stupidi e dei pecoroni. A Willy Boy era stato insegnato a non reagire agli insulti se voleva sopravvivere e a nascondere qualunque desiderio di aggressione o vendetta. Ma quella sera, quando Winston aveva parlato, gli aveva rotto una bottiglia di birra in faccia e lo aveva mandato lungo e disteso sul pavimento, svenuto. La sera seguente, mentre Willy Boy dormiva, qualcuno gli aveva tagliato la gola. Quindi Winston Lewis era diventato uno dei tanti assenti senza permesso. L'esercito se n'era più o meno infischiato. Ne avevano già avuti abbastanza di risse e accoltellamenti tra i soldati di colore, e Willy Boy era stato mandato a casa chiuso in una bara. Al funerale, Ruth, Smokey e tutti i Threadgood erano seduti in prima fila. Iggy parlò a nome della famiglia. Il predicatore disse che Gesù chiamava prematuramente a sé solo i più valorosi e parlò della volontà dell'Onnipotente che siede sul trono d'oro del cielo. La congregazione ondeggiò e rispose: «Sia fatta la sua volontà». Artis rispose al predicatore, insieme con tutti gli altri, ondeggiò sulla panca, mentre sua madre piangeva disperata. Ma dopo la funzione non andò al cimitero. Mentre Willy Boy veniva calato nella sua fredda tomba d'argilla, Artis saltò su un treno e partì per Newark, New Jersey, in cerca di un certo Winston Lewis. E la congregazione cantava: «Signore, non smuovere questa montagna, ma dammi la forza di scalarla». 3 giorni più tardi il cuore di Winston Lewis venne trovato in un sacchetto di carta, a diversi isolati da casa sua. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama. 28 luglio 1986. Evelyn aveva riguadagnato tutto il peso perduto con la dieta, più 4 chili. Sconvolta com'era, non si accorse che ancora una volta la signora Threadgood aveva indossato il vestito a rovescio. Erano occupate a dar fondo a una scatola di fondenti al cioccolato quando la signora Threadgood disse: «Darei l'anima per un panetto di burro. La margarina che servono in questo posto sa di lardo. Ne abbiamo dovuto mangiare talmente tanta durante la depressione che non voglio mai più sentirne il sapore. Così ne faccio a meno e mangio il pane tostato liscio, oppure solo con la marmellata di mele». Ora che ci penso, Iggy e Ruth comprarono il caffè nel 1929, nel momento peggiore della depressione, ma non credo che abbiano mai fatto uso di margarina, o perlomeno io non me ne ricordo. È strano, il mondo pativa la fame, ma al caffè gli anni della depressione furono forse i più felici, anche se eravamo tutti provati. Sì, eravamo felici e non lo sapevamo. Spesso la sera ci sedevamo al caffè ad ascoltare la radio. Ci piacevano tutti quei comici, Fibber McGee e Molly, Amos e Andy, Fred e Allen, e non ricordo che cosa ci piaceva di più, ma erano tutti così bravi. I programmi che danno adesso alla televisione, invece, sono inguardabili. Si vedono solo persone che sparano o si scambiano insulti. Fibber McGee e Molly non si scambiavano insulti. Amos e Andy gridavano un po', ma solo per far ridere. E i negri in televisione non sono più educati come una volta. Sipsi direbbe a Big George di andarsi a nascondere se parlasse come loro. Ma non è solo la televisione. Un giorno la signora Otis è andata al supermercato e ha detto a un ragazzino negro che passava di lì che gli avrebbe dato un nichelino se l'avesse aiutata a caricare la spesa in macchina. Ma lui l'ha guardata storto e se n'è andato. E non sono solo i negri. Quando la signora Otis guidava ancora, prima di tamponare quel carretto di frutta, la gente ci seguiva suonando il clacson e quando ci sorpassavano ci facevano dei gestacci. Non avevo mai visto una cosa simile. Non c'è bisogno di essere tanto villani. Non guardo più neppure il notiziario. Si vedono solo guerre. Dovrebbero dare a quella gente dei tranquillanti, così se ne starebbero quieti per un po'. Al signor Dunaway hanno fatto bene. Secondo me le brutte notizie contribuiscono a rendere peggiore la gente e così quando inizia il notiziario spengo il televisore. Da una decina di anni a questa parte guardo solo i programmi religiosi, ma non mi vanno i predicatori che strillano tutto il tempo. Non capisco perché debbano strillare quando hanno davanti a sé un microfono. Quando si mettono a gridare così, spengo il televisore. E le dirò un'altra cosa: le barzellette dei giornali non fanno più ridere. Un tempo era sempre divertente leggere Gasolinelli o Wee Willie Winkle, e quanto mi piaceva quel Little Harry, sì, quello che si metteva sempre nei pasticci. Secondo me la gente non è più felice come una volta. Non si vedono più facce contente, o almeno io non ne vedo. Quando Francis ci ha portato a fare spese, ho detto alla signora Otis: «Guarda, hanno tutti quanti la faccia scura, anche i giovani». Evelyn sospirò. «Mi chiedo come mai la gente sia diventata così cattiva». «E succede in tutto il mondo. Secondo me si avvicina al giudizio universale». Forse arriveremo all'anno 2000, ma ne dubito. Sa, ascolto un mucchio di predicatori e tutti quanti concordano nel dire che stiamo per finire i nostri giorni. Dicono che è scritto nella Bibbia, nell'Apocalisse. Naturalmente solo il buon Dio può sapere quando succederà. Io non so quanto mi sarà concesso di vivere, ma sono al tramonto. Per questo vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo. Voglio tenermi pronta. E per questo non mi permetto di criticare il signor Dunaway e West Adcock. Tutti quanti dobbiamo vivere e lasciar vivere». «Che cosa fanno il signor Dunaway e West Adcock?» si sentì in dovere di chiedere Evelyn. «Si sono innamorati, o almeno credono di esserlo. Avrebbe dovuto vederli con la mano nella mano a sbaciucchiarsi. La figlia del signor Dunaway l'ha scoperto e ha minacciato di denunciare la casa di cura. Ha detto che la signora Adcock è una adescatrice». «Oh no! Invece sì! Ha detto che sta cercando di portarsi via il loro papà. È successo un 48 e hanno riportato il signor Dunaway a casa». Temono che lui e la signora Adcock cerchino di avere rapporti sessuali, credo. Ma secondo me non c'è speranza. Jenin dice che lui ha perduto le sue funzioni anno fa e non potrebbe fare del male a una mosca, quindi perché non li lasciano abbracciarsi e baciarsi in pace? Vesta ha il cuore spezzato, potrebbe fare un gesto disperato. Ma le dirò una cosa, non lasciano molta libertà qua dentro. No. Immagino di no, commentò Evelyn. Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 15 agosto 1986. Jenin, l'infermiera nera che si vantava di essere resistente come un montanaro, ma in realtà non lo era affatto, proclamò di essere stanca. Aveva fatto un doppio turno ed era entrata nella loro stanza per sedersi un momento e fumare una sigaretta. La signora Otis era in fondo al corridoio dove si teneva il corso di economia domestica, così la signora Threadgood fu lieta di avere la sua compagnia. «Conosce quella signora con cui parlo sempre la domenica?» «Quale signora?» domandò Jeanine. «Evelyn». «Chi?» «Quella donna grassottella con i capelli grigi, Evelyn Couch, la nuora della signora Couch». «Ah, sì!» Mi ha detto che da quando quell'uomo l'ha insultata al supermercato odia la gente. E io le ho detto, tesoro, l'odio non fa bene a nessuno. Finirà per trasformare il suo cuore in una radice amara. La gente non può fare a meno di essere quello che è. Proprio come una moffetta non può fare a meno di essere una moffetta. Crede forse che se potessero scegliere non preferirebbero essere qualcosa di diverso? Certo che lo preferirebbero. La gente è soltanto debole. Evelyn mi ha risposto che certe volte sente di odiare persino il marito. Lui se ne sta seduto tutto il giorno a far niente, a guardare le sue partite di football alla televisione o a parlare al telefono, e a lei viene voglia di colpirlo in testa con una mazza da baseball. Povera Evelyn. Crede di essere l'unica al mondo ad aver avuto un pensiero cattivo. Le ho detto che è del tutto naturale, che succede a tutte le coppie sposate. Ricordo ancora quando Cleo tornò a casa con la sua prima dentiera, quanto ne andava fiero, ma io la sentivo sbattere ogni volta che lui mangiava un boccone e mi dava così sui nervi che certe sere dovevo alzarmi da tavola per non maltrattarlo. Eppure amavo quell'uomo più di ogni altro al mondo. È inutile illudersi, c'è un periodo in cui si comincia a darsi fastidio l'un l'altro. Poi un giorno, non so se la sua dentiera abbia smesso di sbattere o se io abbia smesso di sentirla, ma non mi ha più dato fastidio. Sono cose che capitano anche nelle migliori famiglie. Prenda Iggy e Ruth. Non si sono mai viste al mondo due persone tanto devote l'una all'altra, ma anche quelle due hanno avuto i loro problemi. Una volta Ruth venne a stare a casa nostra. Non seppi mai perché e non glielo chiesi, poiché non erano affari miei, ma secondo me non le garbava che Iggy andasse tanto spesso al fiume dove abitava Eva Bates. Pensava che fosse Eva a incoraggiare Iggy a bere tanto, e aveva ragione. Ma come ho detto, ciascuno è fatto a modo suo. Povera Evelyn, sono preoccupata per lei. Soffre dei peggiori mali della menopausa. Dice che non solo vuole prendere a mazzate Ed, ma ultimamente fantastica di vestirsi di nero, di uscire di notte e di uccidere tutti i cattivi con una mitragliatrice, se lo immagina. Così le ho detto, tesoro, lei guarda troppa televisione. Mi prometta che non avrà mai più pensieri del genere. Inoltre non spetta a noi giudicare il prossimo. È scritto qui nella Bibbia, chiaro e tondo, che il giorno del giudizio Gesù verrà con un esercito di angeli a giudicare i vivi e i morti. Evelyn mi ha detto che spera di essere morta quel giorno, perché altrimenti morirebbe di certo per lo spavento. Io non mi preoccupo, tanto morta lo sarò di sicuro. Club della pesca Wagon Wheel, Fiume Warrior, Alabama, proprietario J. Bates, 3 giugno 1946. Le luci azzurre erano accese e si sentiva la gente all'interno parlare. La musica del jukebox arrivava fin sull'altra sponda del fiume. Iggy, seduta a uno dei tavoli centrali, tracannava una birra dopo l'altra. Quella sera non avrebbe toccato una goccia di whisky, perché la sera prima ne aveva bevuto abbastanza da averne per un bel pezzo. La sua amica Eva si stava divertendo insieme a dei ragazzi di campagna che quella sera avrebbero dovuto recarsi a una riunione del club degli Alci a Gate City. Passò accanto a Iggy e la guardò. Santo cielo, si può sapere che cosa ti succede? Sembri una lucertola con il mal di testa. Frank Williams stava cantando a pieni polmoni la sua solitudine. Ruth se n'è andata, disse Iggy. Eva si rabuiò. Come hai detto? Se n'è andata, è andata a stare a casa di Cleo e Ninni. Eva si sedette. Perché l'ha fatto, Iggy? Ce l'ha con me. Questo l'avevo capito, ma tu che cosa l'hai fatto? Le ho mentito. Ma no, e che cosa l'hai detto? Che andavo ad Atlanta a trovare mia sorella Leone e John. Ma invece non ci sei andata? No. E dove sei andata? Nel bosco. Con chi? Da sola, avevo voglia di stare senza nessuno tra i piedi, tutto qui. E perché non gliel'hai detto? Non lo so, forse non mi piace dover dire a qualcuno dove vado e che cosa faccio. Non lo so, stavo cominciando a sentirmi in trappola e avevo bisogno di evadere, almeno per un po', così ho mentito. Che cosa c'è di male? Grady racconta un sacco di frottole a Gladys e lo stesso fa Jack con Mosel. Lo so, ma tu non sei né Grady né Jack, e Ruth non è né Grady né Mosel. Non deve più succedere, Iggy. Ti sei dimenticata di quanto hai sofferto nell'attesa che lei tornasse? No, ma a volte ho bisogno di starmene per conto mio. Ho bisogno della mia libertà, tu mi capisci? Certo che ti capisco, Iggy, ma prova a guardare le cose dal suo punto di vista. Quella ragazza ha rinunciato a tutto quello che aveva per venire qui. Ha lasciato la sua casa e tutti i suoi amici, e l'ha fatto per stare vicino a te? Tu e Stamp siete tutto ciò che ha. Tu hai gli amici e la famiglia. Sì, e a volte mi sembra che vogliano più bene a lei che a me. Adesso ti dirò una cosa, Iggy. Non credi che le basterebbe schioccare le dita per trovarsi qualcun altro qui in città? Secondo me ti conviene pensarci bene prima di mentirle un'altra volta. In quel momento, Helen Claypool, una donna sulla cinquantina che frequentava il club da anni, adescando gli uomini e bevendo con chiunque fosse disposto a offrirle qualcosa, uscì dal bagno così ubriaca che si era infilata il di dietro del vestito nelle mutande e ora andava barcollando verso il tavolo dove un gruppo di uomini la stava aspettando. Eva la indicò. Ecco una donna libera. A nessuno importa un fico secco di dove si trova e nessuno l'andrebbe a cercare se sparisse. Di questo puoi stare certa. Iggy scrutò Helen con il rossetto sbavato e i capelli che le ricadevano sul viso. Helen si sedette e guardò gli uomini senza vederli, con gli occhi appannati. Devo andare, decise all'improvviso Iggy. Ho bisogno di riflettere. Sì, è quello che penso anch'io. 2 giorni più tardi Ruth ricevette un messaggio scritto a macchina che diceva: Se chiudi in trappola un animale selvatico, puoi star certa che morirà, ma se lo lasci libero 9 volte su 10 tornerà a casa. Ruth telefonò a Iggy per la prima volta in 3 settimane. Ho ricevuto il tuo biglietto e ci ho pensato. Forse dovremmo parlarne. Iggy si eccitò. Sì, parliamone, vengo subito. E uscì dalla porta, decisa a giurare, se necessario, sulla Bibbia e davanti alla casa del reverendo Scroggins, che non avrebbe mai più mentito a Ruth. Quando girò l'angolo e vide la casa di Cleonini, le tornarono in mente le parole che Ruth le aveva detto. Quale biglietto? Lei non aveva mandato nessun biglietto.